Certo, poiché avevo dei dubbi sulla vita, sulla morte di Albertine, già da tempo avrei dovuto intraprendere qualche inchiesta. Ma la stessa stanchezza, la stessa viltà che mi avevano sottomesso ad Albertine quando lei era presente, mi impedivano di prendere qualsiasi iniziativa ora che non la vedevo più. Eppure, dalla debolezza trascinata per anni scaturisce a volte un lampo d'energia. Mi decisi almeno a questa inchiesta affatto parziale. Era come se non ci fosse stato altro in tutta la vita di Albertine. Mi chiedevo chi avrei potuto mandare a Balbec per tentare un'inchiesta sul posto, e me mi parve una buona scelta. Oltre a conoscere stupendamente i luoghi, apparteneva a quella categoria di gente del popolo attenta al proprio interesse, fedele a coloro che serve, indifferente ad ogni sorta di morale, di cui, dal momento che se li paghiamo bene sono obbedienti alla nostra volontà, in grado di rimuovere ogni possibile ostacolo, altrettanto incapaci di indiscrezione, di mollezza o di improbità quanto privi di scrupoli, siamo soliti dire sono brave persone. Possiamo avere in costoro una fiducia assoluta. Partito Aimé, pensai quanto sarebbe stato meglio se quello che lui avrebbe cercato di scoprire laggiù lo avessi potuto chiedere in quel momento alla stessa Albertine. E il pensiero di questa domanda che avrei voluto, che mi sembrava d'essere sul punto di porle, avendo portato repentinamente Albertina al mio fianco, non grazie a uno sforzo di resurrezione, ma come per la combinazione d'uno di quegli incontri da cui, come nelle fotografie non in posa, nelle istantanee, una persona risulta sempre più viva, nello stesso momento in cui immaginavo la nostra conversazione, io ne sentivo l'impossibilità. Avevo abbordato da un nuovo lato l'idea che Albertine era morta. Albertine, che mi ispirava la tenerezza che si ha per gli assenti, di cui la vista non interviene a rettificare l'immagine abbellita, ispirandomi altresì la tristezza che quell'assenza fosse eterna, che la povera piccina fosse privata per sempre della dolcezza della vita. E di colpo, con uno spostamento brusco dalla tortura della gelosia, passavo alla disperazione del distacco. A riempire il mio cuore, invece degli astiosi sospetti, era adesso il ricordo intenerito delle ore di fiduciosa tenerezza passate con la sorella che la morte m'aveva realmente fatto perdere, giacché il mio dolore non si riferiva a ciò che Albertine era stata per me, ma a ciò che il mio cuore, desideroso di partecipare alle emozioni più generali dell'amore, a poco, m'aveva persuaso che fosse. Mi rendevo conto allora che quella vita che m'aveva tanto annoiato, così credevo almeno, era stata invece deliziosa. Ai minimi momenti trascorsi a parlare con lei di cose magari insignificanti, sentivo adesso aggiunta, amalgamata, una voluttà che a suo tempo, è vero, non avevo percepito, ma che era pur stata la causa per cui li avevo sempre cercati quei momenti, con tanta perseveranza e ad esclusione di tutto il resto. I minimi accidenti che ne ricordavo, un movimento che lei aveva fatto in vettura accanto a me o per sedersi a tavola di fronte a me in camera sua, propagavano nel mio animo un vortice di dolcezza e di tristezza che cerchio dopo cerchio lo pervadeva per intero. Quella camera dove eravamo soliti pranzare non m'era mai parsa bella. Dicevo che lo era ad Albertine solo perché lei fosse contenta di viverci. Adesso le tende, le sedie, i libri avevano smesso d'essermi indifferenti. L'arte non è la sola a conferire fascino e mistero alle cose più insignificanti. Lo stesso potere di metterle in rapporto intimo con noi è assegnato anche al dolore. Sul momento non avevo prestato alcuna attenzione al pranzo che avevamo consumato insieme di ritorno dal Bois prima che io mi recassi dai Verdurin, e alla cui bellezza, alla cui grave dolcezza, guardavo adesso con occhi pieni di lacrime. Un'impressione d'amore è fuori proporzione rispetto alle altre impressioni della vita, ma è impossibile rendersene conto finché è dispersa in mezzo ad esse. Non è dal basso, nel tumulto della via e nella ressa delle case circostanti, ma quando ci si è allontanati vetta è pendito un poggio dei dintorni, a una distanza da cui tutta la città è scomparsa o non forma più rasoterra che un ammasso confuso nel raccoglimento della solitudine e della sera, che si può valutare unica, persistente e pura l'altezza d'una cattedrale. Cercavo di baciare l'immagine di Albertine attraverso le mie lacrime, pensando a tutte le cose serie e giuste che aveva dette quella sera. Un mattino credetti di vedere la forma oblunga d'una collina nella nebbia, di sentire il calore d'una tazza di cioccolata, mentre mi stringeva orribilmente il cuore il ricordo di quel pomeriggio in cui Albertine era venuta a trovarmi e io l'avevo baciata per la prima volta. Era perché avevo sentito il singhiozzo del calorifero ad acqua appena riacceso. E buttai via con rabbia un invito di Madame Verdurin che Françoise m'aveva portato. Con quanta maggior forza mi si imponeva l'impressione, provata la prima volta che ero andato a pranzo alla Raspellière, che la morte non colpisce tutti alla stessa età, ora che Albertine, così giovane, era morta, e Brichot continuava a pranzare da Madame Verdurin, la quale non aveva smesso di ricevere e avrebbe ricevuto forse per molti anni ancora. Immediatamente il nome di Brichot mi ricordò la fine della stessa serata, quando lui m'aveva accompagnato a casa e io avevo visto dal basso la luce della lampada di Albertine. Ci avevo già ripensato altre volte, ma non avevo abbordato quel ricordo dallo stesso lato. Infatti, se i nostri ricordi ci appartengono, è al modo di quelle proprietà piene di porticine nascoste che noi stessi molte volte non conosciamo e che qualche vicino ci apre, cosicché ci ritroviamo in casa nostra da una parte da cui non ci era mai successo di entrare. Allora, pensando al vuoto che avrei trovato adesso nel rincasare, pensando che non avrei visto mai più dal basso la camera di Albertine, dove la luce s'era spenta per sempre, capii quanto quella sera che nel lasciare Brichot era parso di provare della noia, un rimpianto di non poter andare a passeggio e a far l'amore altrove, capii quanto mi ero ingannato e che solo perché credevo quel tesoro i cui riflessi giungevano dall'alto sino a me di possederlo nel più totale e pacifico dei modi, avevo trascurato di calcolarne il valore. E per questo esso mi appariva necessariamente inferiore ai piaceri che, per piccoli che fossero, io valutavo nell'atto stesso in cui cercavo di immaginarli. Capii quanta pienezza, quanta vita e quanta dolcezza contenesse per me quella luce che mi sembrava venire da una prigione e come altro non fosse che la realizzazione di ciò che m'aveva inebriato per un istante e m'era poi sembrato per sempre impossibile. La sera in cui Albertina aveva dormito a Balbec sotto il mio stesso tetto. Capivo come la vita che avevo vissuta a Parigi in un'intimità domestica che era la sua intimità domestica fosse appunto la realizzazione di quella pace profonda che avevo sognata e creduta impossibile la sera in cui aveva dormito sotto il mio stesso tetto al Grand Hotel di Balbec. La mia conversazione con Albertine mentre tornavamo dal Bois, prima di quell'ultima serata a Verdurin, non mi sarei mai consolato se non ci fosse stata. Quella conversazione che aveva un po' mescolato Albertine alla vita della mia intelligenza e, in qualche minima parte, ci aveva resi identici l'uno all'altro. Perché non c'è dubbio che la sua intelligenza, la sua gentilezza nei miei confronti, sebbene vi riandasse con commozione, non erano poi state maggiori di quelle d'altre persone che avevo conosciute. Madame de Cambremer non m'aveva forse detto a Balbec: «Ma come? Potreste passare le vostre giornate con Elstir, che è un uomo di genio, e le passate con vostra cugina?» L'intelligenza di Albertine mi piaceva perché, per associazione, ridestava in me ciò che io chiamavo la sua dolcezza, nel senso in cui chiamiamo dolcezza d'un frutto una certa sensazione che è solo nel nostro palato. E in effetti, quando pensavo all'intelligenza di Albertine, le mie labbra istintivamente si protendevano e assaporavano un ricordo la cui realtà preferivo mi restasse esterna e consistesse nella oggettiva superiorità d'un essere. Certamente avevo conosciuto persone di intelligenza più spiccata, ma l'infinito dell'amore o il suo egoismo fa sì che gli esseri che amiamo siano quelli la cui fisionomia intellettuale e morale è, ai nostri occhi, la meno oggettivamente definita. Li ritocchiamo di continuo, a seconda dei nostri desideri e dei nostri timori. Non li separiamo da noi. Non sono altro che un luogo immenso e vago dove esteriorizzare le nostre tenerezze. Del nostro corpo, in cui affluiscono incessantemente tanti malesseri e tanti piaceri, non possediamo un profilo netto come quello d'un albero o d'una casa o d'un passante. E avevo avuto torto, forse, a non sforzarmi maggiormente di conoscere Albertine in se stessa. Così come, dal punto di vista del suo fascino, per molto tempo non avevo considerato che le diverse posizioni da lei occupate nel mio ricordo sulla mappa degli anni, e m'ero sorpreso vedendo che s'era spontaneamente arricchita di modifiche che non dipendevano soltanto dalla diversità delle prospettive, allo stesso modo avrei dovuto sforzarmi di capire il suo carattere, come quello d'una persona qualsiasi, e forse, riuscendo così a spiegarmi perché si ostinava a nascondermi il suo segreto, avrei evitato di prolungare fra quello strano accanimento e il mio immutabile presentimento il conflitto che aveva condotto alla morte di Albertine. E allora, con una grande pietà di lei, sentivo la vergogna di sopravviverle. Nelle ore in cui soffrivo di meno, mi sembrava, infatti, di beneficiare in qualche modo della sua morte. Perché una donna è di maggiore utilità per la nostra vita se costituisce in essa, anziché un elemento di felicità, uno strumento di dolore. E non ve n'è alcuna il cui possesso sia tanto prezioso quanto quello delle verità che ci rivela facendoci soffrire. In quei momenti, accostando la morte della nonna a quella di Albertine, mi sembrava che la mia vita fosse macchiata da un doppio assassinio che solo la viltà del mondo poteva perdonarmi. Avevo sognato che Albertine mi capisse, che non mi sottovalutasse, credendo che fosse per la grande felicità d'esser capito, di non esser sottovalutato quando tante altre avrebbero potuto fare questo meglio di lei. Si desidera essere capiti perché si desidera essere amati, e si desidera essere amati perché si ama. La comprensione delle altre ci è indifferente, e il loro amore importuno. La mia gioia d'aver posseduto un po' dell'intelligenza di Albertine e del suo cuore non dipendeva dal loro valore intrinseco, ma dal fatto che quel possesso era un passo in avanti nel possesso totale di Albertine, possesso che era stato il mio scopo e la mia chimera sin dal primo giorno che l'avevo vista. Forse, quando diciamo che una donna è tanto cara, non facciamo altro che proiettare fuori di noi il piacere che proviamo nel vederla, come i bambini quando dicono «Mio bel lettino, mio bel cuscinetto, miei cari biancospini». Il che spiega, peraltro, come gli uomini non dicano mai di una donna che non li inganna «è tanto cara», mentre lo dicono così spesso di una da cui sono ingannati. Madame de Cambremer aveva ragione di pensare che il fascino intellettuale di Elstir fosse maggiore. Ma non possiamo giudicare alla stessa stregua quello di una persona che è, come tutte le altre, esterna a noi, dipinta all'orizzonte del nostro pensiero, e quello di una persona che in seguito a un errore di localizzazione dipendente da certi fatti accidentali, ma tenace, si è insediata nel nostro corpo, al punto che chiederci retrospettivamente se un dato giorno abbia o no guardato una donna nel corridoio d'un trenino della costa ci fa soffrire non meno d'un chirurgo che ci cercasse una pallottola nel cuore. Un semplice croissant, che però possiamo mangiare, ci fa provare più piacere di tutti gli ortolani, coniglioli e coturnici mai imbanditi a Luigi XV. E se siamo sdraiati in montagna, il filo d'erba che freme a pochi centimetri dal nostro occhio ci può nascondere il vertiginoso pinnacolo d'una vetta, se questa sia distante parecchie leghe.